parlo da ancora dentro l'occupazione di Naut, e c'è chi ha resistito insomma nelle camere comunque fino a che la polizia non ha sfondato proprio le porte. Questa mattina insomma intorno alle 9 la polizia ha fatto irruzione dentro l'istituto Santa Giuliana occupato e dentro l'occupazione di Naut, e al di fuori si è formato subito un presidio che è stato caricato più volte anche con un ferito, insomma con una testa spaccata di una nostra compagna che è andata a farsi le fratelle all'ospedale. Poi ripeto, io parlo ancora da dentro e c'è ancora chi resiste insomma qua dentro l'istituto. Comunque è brutale in ogni caso sgomberare più di 40 persone che trovavano casa qui in via Mazzini 90. Lo sgombero è per liberare uno stabile che sarà venduto per farci uno studentato privato, per cui per noi questa cosa è assolutamente inaccettabile. È una delle cose che dicevamo i primi giorni di occupazione, il giorno stesso dell'occupazione. Sentite adesso i megafoni fuori dal presidio con i compagni e le compagne che si fanno sentire attraverso i cordoni della polizia. Per noi è inaccettabile che in questa situazione a Bologna si sgomberi un'esperienza che dava casa a tante persone, che potenzialmente ne stava dando anche ad altre. Avevamo una lista di più di 100 persone che ci avevano espresso un'esigenza insomma di trovare una stanza qui, per farci un ennesimo studentato di lusso. Questo per noi è inaccettabile, la politica deve prendersi le sue responsabilità. Lo stabile è di proprietà di insomma una congregazione religiosa. Avevate cercato contatti con la proprietà in questi giorni? Noi ci siamo detti sin da subito disponibili a parlare con forze sociali, istituzioni e con chiunque, con la proprietà insomma, con chiunque volesse si desse disponibile. Chiaramente a quanto pare hanno vinto manganelle.